Incubo di questa notte afosissima con tanti spesso di tutti gli di questa affa sulla gola. Soffocamento, balzare dal letto agilmente, non sto negli, ma è il trionfo del fumare, fumo, uguale, grigio inconsciente più, armonia soffice per profumo vizioso ora notturna. Iguale. Trionfo. Trionfo fo. Più. Incubo insomnia impassiere improvvisamente. Sostituire a tutte le lettere dell'alfabeto l. Spire il mio corpo di e andrei all'infinito. Girare, girare, girare, girare. Ore notturne, delizia, notte fiorentina. Più fanali, più fanali. Iguale fresco esterno. Esistere ancora il fresco esterno. E lucchiole, lucchiole, lucchiole nelle tenebre. Finalmente senza ferire la mia fissazione. Fenditura su tutto il mio corpo femminile. Comincia la pazzia. Impossibile fioritura. Nello.